Scusami. Sempre sveglio, e anzi mi è venuta una specie di smania. Stai vedendo il bel tempo, ero quasi eccitato, voglio riuscire, eccetera. Un terrazzino che al suo lato c'era un forno. Eh? Adesso di nuovo a maniche corte, mi. Eh? 15 ottobre, maniche corte. Sono uscito al mondo stamattina io in camicia, allucinante, boh. Hai fatto bene, fatto bene. Pensa che io ho pure il parabrezza, anche se esco in maglietta, ora come ora fresco non ne sento. Questa moto mi sa che è pindacciata, dai. Sì, anzi ti dirò, in passato quando avevo le moto più grosse, c'era un XCB, no? Io me ne andavo a Platamona in maglietta o in camicia, a certe volte me la lasciavo aperta la camicia, proprio la sbottonavo avanti e sventolavo verso dietro, no? E dice no, ma chi ha la moto, chi è motociclista, anche in estate deve usare le protezioni, perché vabbè, dice, se cado mi faccio male, mi sbuccio il gomito, quello sì, no? Lui anche a Ferragosto si metteva il giubbotto in pelle, ogni aggaggio, capito, a sudare come un porco, tutto, pantaloni, giubbotti, io uscivo in pantaloncini corti, in sandali, in maglietta e moto, e lì per la breccia non ce n'era, lì ti pigliava il vento, anche le vespe ogni tanto. Lui no, lui anche a Ferragosto, giubbotto in pelle, no, io ho provato col giubbotto in pelle, ma appena ti fermi un semaforo c'è da morire, da sudare, infatti non è per me. Quando cado, pazienza, già mi rifanno al pronto soccorso, già mi rifanno la pelle nuova. Bene, buonasera innanzitutto. Gappa, buonasera. No, vabbè, io con lo scooter tanto non ci riesci a battere, però con la moto grossa sul botto ci vuole, casco integrale, perché se ti prendi un bufone o una vespa ti ammazzi. Allora bisogna, capito? Ok. Non se la devi dare quella moto là. Fammela vedere, te l'ho detto, fammela vedere. Se non la fai vedere non possiamo quantificare che cosa ci vuole, capito? Non è un problema portarla da casa tua qua senza assicurazione. Già la guido io, tu non ti preoccupare. Se poi è una cosa che si può fare, si fa. Ma meglio di tenerla lì, te la fai di là, perché poi alla fine si gioca tutta, capito? Invece si porta, la porto lì in piazza dei Segni, no, ma si fa mettere a posto, e non c'è problema. Se no, cosa ne fai? O te la metti a posto, o vendi di là, insomma. Adesso vediamo. Se con la tredicesima riusciamo a metterla a posto, se posso contribuisco, sai, la batteria, il bolli, anche la visione. No, darla no, darla no, se non è inutile averla comprata. Vediamo cosa ne esce, dai, casomai. Rimane lì finché non posso metterla in auge. Io l'avrei già messa a posto, mi, se non avessi speso soldi in cagate tutto quest'anno, soldi in cagate. E vabbè, avevo quelle priorità e va bene. Ancora non ho sentito Pomponio che mi deve spiegare il bidone di ieri. Antonello, ci sei all'ascolto? Ma vai, un briacone tragico. Mia Natalino, mi. E beh, non dicono nulla con l'omologato, no? Non è venuto nessuno. L'ho visto stamattina e non l'ha detto lui. Perché mi chiama Sassari Claudio Sparviero? Ciao Natalino. Aumenta il suo microfono. Aumentalo, non le va tenuta. Chi è che chiama Sassari Claudio Sparviero? Avanti. Poi ciao G, minchia roba di QRM, ciao G, Santiago 7 di QRM, ciao. E dove sei oggi? Carceri di bancari, bene mera. Allontana dei anch'io che è pericoloso. Ma dentro o fuori è? No, no, è brutto, è un brutto posto, meglio di no, mai sia. Vattene da lì, non sa che ti trattengano. Grand Hotel, come si chiama quella zona? Grand Hotel Bancali, mamma mia. Beh, Nathalie. Oh, Claudio, sento su 432-525, no? In chiaro, delle missioni francesi sembrano francesi in digitale ascoltati in chiaro e ritrasmessi a 432-525. Ma cos'è quello? Un eco link? Un interlink? Cos'è? Mi chiamano come voi, linkato con l'R0. Lì se io schiaccio l'R0 mi siete lì. Adesso ce n'è anche un altro, se vuoi ascoltare. Abbastanza trafficato, hanno terminato, penso, oggi, l'R7 Alfa, capito? 145.785.2, capito? Lì è abbastanza trafficato. L'R7 Alfa si chiama. Ho 4 watt, Eugenio. Ah, pensavo stavi dicendo a me. Purtroppo c'è questa porca propagazione, caspita, giù mamma mi copre Eugenio. Sì, anche a me, lo sto dicendo, sentiamo 7 di propagazione, cioè Eugenio è 8, abbondante. Ho detto, Marco, il PMR è acceso, c'hai? Prova a schiacciare, a ver se arrivi. Che ho messo l'altro ad ascoltare. Tu sì. No, solo ricevitore c'è adesso. E io sono sempre cacciato, c'è solo ricevitore adesso. Non ce l'ho collegato, dai. Sì, vuoi che non arrivi? Ah? Anche la porta del torre se ti arrivo. No, vabbè, c'ho il ricevitore con l'altra antenna piccolina, quella che è sulla finestra. Capito? Portatile, non c'ho l'altro, quello grande, però c'è l'antenna attaccata con la piccolina sulla finestra. Posso sapere se arriva, vabbè, dai, quando sento qualcuno già me ne accorgo se il segnale è buono. Dimmi, genio. Se è omologato non puoi, gli devi fare la modifica di quel ponticello. Con una pinzetta si toglie questo ponticello e si collega tra il 2 e il 3, tra l'1 e il 2 omologato, insomma non è roba che posso dire qua, glielo so fare se vuole. Allora, il tone HI non lo devi toccare, devi spostare il selettore di bande A, B, C, spostalo su E, B, spostalo su E, B e vai sul 5, sei sul 45. E la manopola delle bande, uno scatto a destra, centrale deve essere, E, B, metti il 5 e sei sul 45. Eia. Ah, era già fatta la modifica, vabbè, meglio così, questo invece è proprio omologato, 40 canali solo. Eia. Comunque sì, Claudio, quei francesi li sentivo con la tipica distorsione delle modulazioni digitali, un po', soprattutto quelli bassi, così sentivo così, già lo sai, no? Già lo sai, no? Già ce l'hai anche tu. Sì, deve essere qualche link che lo trasforma da in chiaro digitale al ponte normale. Bene, tu non la stai più usando, no? La titera, cos'hai? Titera, sì, ascolto, no, non c'entro più io, non mi interessa. Il tempo che ho fatto stavano parlando, stavo ascoltando. Non c'è problema, adesso anche lì sull'R7 Alfa parlano in digitale lo stesso. Vabbè, ma sono delle scelte che si fanno, Marco, non è, te l'ho già detto io come la penso, non mi interessa. Io non voglio avere più niente di queste cose. Non sto per i fatti miei, mi va bene così, faccio un po' di 27, se devo andare a salutare da qualche parte entro saluto, non è che non mi mancano le radio o la possibilità. Che sono delle scelte, quindi già da un po' di anni basta, finito, non mi interessa. Però ascolto tutto e so tutti i movimenti, so tutto, io sono sempre in ascolto da tutte le parti, come quando trasmetto. Ascolto ma non parlo, capito? Yam, io lo faccio 45 a piove di gente. non è regolata a questa radio anche come amplificazione, va bene adesso? Bene, bene, benissimo. Ho guardato i prezzi delle Itera vere, no? Siamo sui 500 e oltre Itera. Invece Titera, che dovrebbe essere della TYT, e da quel nome Titera, no? TYT, costano dalle 100 alle 110, 120. 125 col se c'ha il GPS, costano molto meno delle, non so se siano compatibili. Gianfranco già saprà tutto di queste cose. E ho visto su Media Globe, le vendeva 99, no, le MD380 Titera, che appunto spiega che sono difficili da programmare, e chi non è preparato lo pregano di lasciare stare, di non comprarsene. Che sono al telefono. Eia, Natalino. Eia. Capito, Media Globe ha scritto chiaramente, li vende, no, questi digitali, però ha detto chiaramente che se non siete bravi a programmarli, preparati in materia, dice di lasciar perdere, di non pigliarne nemmeno. Ma sono difficili da programmare. Guarda, io ho scaricato un paio di programmi di radio BMR o cos'è, e ci sono molte voci di cui appunto non, magari si capisce, però non, no, di certo non si capisce cosa sia, non è come la radio, canali, no, passo, stretta, larga, step, no, lì non è così, c'è anche quello, ma poi ci sono cose molto più specifiche. Infatti non, a uno le prende pronte, solo che non, bisogna stare attenti anche quando le maneggia, non sbagliare, è un macello, e dai, speravo fosse più facile. Sì, infatti, no, se sono così difficili è meglio usare quelle normali. Eia, la fonia, ancora queste mosche, vabbè. Oh, finché questo caldo non passa le mosche ci saranno sempre. Deve venire freddo, freddo, tipo dicembre, gennaio, febbraio. E ti dirò che anche nel mese freddo io continuavo a vedere insetti. È proprio vero che ci stiamo tropicalizzando, stiamo diventando come il Nord Africa. Forse sono nei guai, ma... Cosa è successo? Adesso devo portargli il cuglio per quella lettera che mi è arrivata, per sapere quanto ho preso, perché non conviene neanche andare a lavorare se pigli la pensione, capisci? Che bella pensione che ti danno di invalidità. Sicuramente se ti fanno tornare tutti i soldi indietro. Ti fanno ridare indietro i soldi? Ma se uno non ne ha, poi cosa si vende? Un rene per loro? Ah, non lo so. Adesso vediamo cosa mi dice. Io gli porto la dichiarazione unica che mi ha dato il comune, così sta tutto. E... perché se dichiari il falso è peggio. Eia, pensa Natalia, che c'era una radio della Giastone, adesso sto cambiando discorso, meglio non pensarci Natalia, una radio Giastone, no? Era mi pare non DMR, DPMR, e costava da un cinese 35 euro. Se non che le ha tolte dal mercato, sono rimaste pochi, cioè io me ne sono accorto pochi giorni prima, poi sono sparite, vabbè, anche comprandole a quel prezzo, non dalla Cina. Il problema è programmarle, perché ci sono un bel di voci che non conosci. C'era anche la sezione del cripto per cifrare il digitale, solo che non si può, solo le forze dell'ordine possono, mi pare, cifrare le comunicazioni. È un casino, Natale, un casino. Infatti ho mollato tutto, ho detto pazienza, molliamo tutto, non le so programmare io, ci vorrebbe una radio già programmata da cui copiare tutti i dati, programmata bene, da cui copiare tutti i dati, solo che non le vendono più. Quello che le vendeva a 35 euro non c'è più, quello che vendeva a 2 a 60 euro non c'è più. No, 100 euro era 2, e 50 l'euro 2. Adesso ci è rimasto solo un ladro che le vende a 180.000 180 euro l'una. Se costavano 35 euro da ieri dalla Cina, questo si crede furbo, 180 euro l'una, non ti nandi. Non si vuole sgombare, no? Ma la gente non è scema, su eBay mette marca modello e si vede più i prezzi. Peccato che anche questo che le vendeva a 35 euro, anzi no palle, 35 dollari, che sono meno di 35 euro, saranno 31-32 euro, non le ha più, io ho anche scritto, dice no more, non più disponibili. Comunque te l'ho detto, il problema è quello, anche avendo disponibili, puoi fare un casino e se sbagli pure il cavetto o coso, la rovini pure la radio. Pazienza, poi ti mando le foto perché era bello, mi l'aspetto, molto bello. Gravi, non c'è comiglia. I vigili urbani non sono in digitale. Non lo so, non so se siano in digitale, non so se siano in tetra, poi il tetra non ho capito bene in cosa consiste, non ho capito se è un formato digitale oppure se sono ponti particolari, l'ho letto ma non mi ricordo, l'ho letto tempo fa, non ho capito niente, credo che sia una cosa digitale comunque, perché quei ricevitori che vendono della AOR, il DV, no? Riceve tutto di Star, C4 FM, DMR, DPMR, Tetra, c'è scritto anche Tetra, quindi presumo sia un formato digitale, poi mi pare APCO o cos'era, roba americana comunque, che non riguarda noi. Ma tanto cosa senti? Senti i radioamatori e dicono solite cose, no? In America è bello perché se la polizia è in chiaro la senti comunque, sugli 800 MHz. In America però si può anche ascoltarmi, non è come qua. Qua fanno sempre operazioni sporche per cui non vogliono essere ascoltati e non li puoi più ascoltare, tanto sono inascoltabili. In America puoi ascoltare, forse per... come dire, sono più trasparenti le comunicazioni, cioè, forse per far vedere che fanno cose lecite e non illecite, capito? Qua non vogliono ascoltare perché chissà cosa combinano certi. Un attimo di quello che devo fare una cosa qui. Io non abbastanza comprendi. Vabbè, là. Ci sentiamo dopo, Marco. A Boggia, la propagazione 8 e mezzo, quasi c'è. Va bene, Natalia. Claudio, sei rientrato? Eugenio, ci sei ancora? Vabbè, Query X è per me anche. Query X. Sono adesso 17:44, ok. Natalino, si è un attimo allontanato, aspetta, mi sto soffiando il naso, dimmi tutto, no, stavamo parlando di digitale con Natalino, che appunto Media Globe ha scritto, se non sapete usarne, il sunto è, se non siete esperti nella programmazione non compratene neanche, il senso di tutta la frase che è più lunga. Mi dia roba e può scrivere quello che le piace. A tutti i dì. Io ho scaricato dei programmi per programmare quel tipo di radio. Ho guardato solo il programma. E ci sono una marea di voci che non conosci, Claudio. Che non conosco. Un po' di voci, parametri strani che non sai cosa siano. È un casino. Un po' Gianfranco aveva ragione. Non un po', aveva ragione. Che dice, bisogna saperli programmare. Bisogna conoscere tutte le voci. Se non fai casino e poi non riesci a usarle. Vabbè, buon viaggio, pazienza. Ma gliel'hai detto a Cornetto che tu sei? C'è uno del PMR, basso basso, non ho capito chi è. Ma non il francese, no, ci sono i francesi sul 9, il PMR, hanno parlato sporadicamente. Aspetta, di nuovo il telefono. Antonello Pomponio, ci sei? Magari sono arrivati in propagazione, può darci pure lì. No, no, va bene, non ti preoccupare, stai arrivando benissimo, ripeto, più basso degli altri di ieri, però come segnale dai, ma la radio va bene, non c'è problema. 8, 9, 10, sì, in abbondante. Sotto sento un abulotto selvaggio di propagazione, un macello e vabbè, bel tempo, ti dicevo Claudio, può darsi che ci sia propagazione troposferica, mi VEU. Ma intanto si apre la squelch, però no, non sento voce, non sento niente, se non è qualche piccinetto che schiaccia la portante, cosa vuoi dire? sempre un casino. Vabbè, comunque adesso lo aspetto, l'avevo acceso per vedere se riceveva. Ho visto già riceve con l'antenna alla finestra, quindi non c'è né problema. Sarei voluto uscire, telefonato a Pomponio, spento o non raggiungibile, quindi o nei drumenti o non ne ha voglia, o in zona d'ombra. O è nel tunnel lì del circolo. Anche quello, volevo dire, o nella zona d'ombra del circolo. Ma vabbè, non si può stare ogni arrivo lì. Mamma mia, no, per carità. Al bar a bere. Continui, c'è grande vaccinato. Continui. Usci, vado a vedere, ve l'ha detto. Riprendi Capri. No, Galaxy lo sta prendendo perché è a posto, nuovo. Coperto malanno me. Ma infatti, cosa vuoi ti dica? Microfono c'è quello lì c'è il microfono suo alla tavola, microfono normale non ce n'è. Si sta andando col microfono perché vi prende senza microfono. Il Galaxy. Non le fate sconti chi sono. Questo è, te l'ho detto. Ok, questo te l'ho detto, cosa? Se lo vuoi è così, se no se li tiene, no? Non le fa sconti a nessuno, no? Ma chi è? Dillo a me. Non devo dirti niente, donna, come stai, dici? Statene sereno tu, non devo dire niente a te, nulla, zero dopo zero. Capito? Io in radio non faccio nome a nessuno, io ho della roba in vendita che mi hanno dato e non devo dire in radio né di chi è e chi non è, ma non solo in radio, neanche a chi non è interessato glielo dico, capito? Anche perché non è di Sassari, quindi non devo fare pubblicità a nessuno. Capito? Ma vabbè, se lo vuoi è così, Capri, e se no si radeni, non ne toglie 10 lire, te l'ho già detto. Ben poco, ho capito, perché me lo copre la propagazione più una portante che forse propagazione anche quella. Eia. No, non è di qua, te l'ho già detto, Capri. Non è che posso, tra l'altro una persona molto, insomma, non tanto non la conosce nessuno, capito? Quindi non deve stare a dire e fare. E mi ha dato un po' di roba perché ce l'aveva, si è disfatto e niente, capito? E qualcosa l'ho già fatta, però rimangono alcune radio molto belle, a prezzo interessante. Se servono a qualcuno vengono qua con i soldi e se le portano via. Così la dà e così le devo dare io, perché non c'è altro da né da aggiungere né da togliere, capito? Sì, infatti non conviene stare lì, ma non va, è tutto in ordine, tutto a posto, e quindi quelli sono i prezzi e quelli devono uscire da qua, perché io non è che ci vorrei mettere in tasca, sto facendo la cortesia, è una persona grande, e quindi va bene così. A me, se mi sarebbe servito qualcosa me l'avrei tenuto, capito, ma grazie a Dio ne ho da vendere anch'io, però non vendo niente, quindi non me ne frega. Vai Marco. Eia, è un casino, non c'è mercato, pensa, anche svendendo roba, tipo quello con il frequenzimetro là, non li vogliono, non vogliono nemmeno roba a poco prezzo, e vabbè, me li tengo, pazienza, forse meglio così. Sì, ma infatti, no, perché c'è un bel 440 nuovo, che c'è un difettuccio, ma niente di particolare, il prezzo è molto interessante, capito? Però lo vuole mettere a posto prima di darlo, eccetera. Va bene, chi è che vuole entrare avanti? Ho visto una portante sotto di te, non so chi è. Tu vuoi russi, bisogna. Io ho messo lo squelch, perché c'è una cozzaglia a modulazione tutte assieme. Sì, vabbè, ancora un po' poi già cala. Le prendi i capri che devo mangiare il cane, un secondo. Lei aspetta, forse è andato da mangiare, ha messo a mangiare a Filippo Claudio, un attimino che rientra. E poco magna, amici suoi cani. Eia, io sono più per i gatti, preferisco i gatti, sono più autonomi, non c'è bisogno di portarli fuori, e poi ce li abbiamo sempre avuti i gatti. Da 45 anni a questa parte, anzi da 46 anni a questa parte abbiamo sempre avuto gatti in famiglia. Beh, non tutti vanno d'accordo con i gatti, non tutti. Chi c'era prima? Natalino anche, Natalì, ti sei ripreso dallo shock? Vediamo cosa mi dice mercoledì, e te lo dico mercoledì se ne riprendo oppure no. Ma cioè loro ti devono dire se devi restituire soldi o no, e perché dovresti restituirli? E allora perché te li hanno dati? Poi non ho capito bene il meccanismo comunque, Natalì. Ma su per il reddito, se su per i 5.000 è qualcosa, devi tornare i soldi. Ma tu non hai reddito? Perché quello è il lavoro dipendente quando lavoravo al comune, capito? Cioè stanno scavando nel passato, così è? Quello del 2016 stanno scavando. È sempre un pasticcio, mi pare anche pomponi o non so per cosa, volevano soldi indietro. Mi aveva accennato, poi vabbè lui lo spiega in modo confuso, ma aveva detto che volevano soldi indietro, e lui ha detto da dove me li tolgo. È tutto uno schifo in Italia, Natalia, ricordati, hai visto ieri alle Iene, dice che gli anziani per starsene in pace con la propria pensione ce ne stanno andando alle Canarie, ed è tutto pieno di anziani che lì vivono felici, pagano poche tasse, pagano poco acqua, poca luce, capito? E aspetta che gli annullano la pensione a quelli adesso, gli tolgono la pensione, lo sa. Oh, e allora sono dei grandi farabutti, perché loro hanno lavorato in Italia tutta la vita e hanno, anche se cambiano residenza, hanno diritto alla pensione. Se non gliela danno, l'Italia è proprio un paese di cacca, per non dire peggio. Avanti. Esatto. Già abbiamo la sanità a pagamento, però con la differenza che invece del 20 paghiamo il 75% di tasse. Ehi, un attimo che c'è già. Gianni, riprendi che Natalino non ti ha sentito, dai. Riprendi già, c'è una propagazione paurosa. Vero, buonasera a tutti, dai. C'ho che un rumo in palla mobile, non so se mi ascoltiate bene. Guarda, io ti faccio esempio, lo zio di mia moglie che lavorava in Francia è venuto qua in Italia, però si è tenuto la pensione francese perché gli conviene che gli danno di più da Francia, capito? Volendo poteva prenderla da qua, dai, però lui ha lavorato in Francia una vita, in fabbrica, e fa fumato e dice che c'ha dei rumori allucinanti. Si è tornato qua e si prende la pensione francese, però sotto nulla, la prende la Francia lui. Eia, però siccome c'è gente che se ne va all'est, no, anziani che se ne vanno all'est o che se ne vanno alle Canarie, Natalino ha detto che forse gli tolgono la pensione, ma se loro hanno lavorato in Italia una vita, perché gliela dovrebbero levare solo perché vanno a abitare fuori? Perché non pagano le tasse in Italia, ecco perché, e gli tolgono la pensione. Siamo un paese di merda. Sì, l'Italia è un paese parassita, capito? È un paese canaglia contro i suoi stessi abitanti, vai già. Via, come di baracca, noi siamo piccole pedine, loro ci muovono come voi. Sto dicendo che secondo come vado vorresti restituire tutti i soldi all'Inps, perché a lavorare secondo loro non mi conviene andare a lavorare, compresa, ma di non bruciarli, di turgoso, se no non mi faccio il turgoso e non mi viene la pensione, compreso. Adesso gli porto quello che mi ha dato il comune, tipo scuse, dichiarazione unica 2016, era, per sapere quanto ho preso. Se supera il resto devo restituire tutti i soldi. E allora? C'è la pensione, quindi cava la pensione. No, secondo me sta la miniera a cavare due. Perché le pensioni di invalidità, Natali, non convengono, perché ogni giorno ti fanno fare la revisione, se vedono che tu stai meglio te la tolgono e tu non c'hai né sacco né sale, capito? Oh, yeah. Aspettando che ti muoia l'altro pezzo di cuore, così non ti dà genuzza. La massa mi rivaria, cazzo, secondo cosa mi dici, ma con il cazzo che pongo una bomba li posso lasciare in atto. Claudio, sei rientrato? Sì, continuate, un minuto arrivo, sono a te. Cioè, oggi è la centralina, Claudio. Tutti telefonano. Oia, oia. Ma... l'Italia ti costringe a fare il pensionato d'Italia per pagare le tasse e se vai fuori ti rischi che te la tolgano. Proprio un paese parassita, uno Stato parassita, dice lo Stato siamo noi, il proprio perdente. Lo Stato è una specie di organo, mangia soldi e boh, e non ti dà niente, la sanità è a pezzi, la scuola è a pezzi, tutto a pezzi in Italia. Lui, cazzo, qua, meglio la morte. Bisognerebbe fare qualche cosa perché no, non è possibile, e si deve ribellare il popolo. Questi cazzo di immigrati, loro li accettano per fare soldi, per mangiarci soldi loro, questi cazzo di ladri. Capita, chi sono ladri? E che poi li denunciano. Mica li sto diffamando, sto dicendo la verità. No, no, non ci mancherebbe. È vero, è vero. Classe politica. Boh. Vabbè che anche la democrazia cristiana in 40 anni cosa ha fatto? Ha continuato a mangiare il PSI, mi, Bettino Craxi, tutti i magnazzoni. Capito? D'altronde sai cosa dicono? Che ogni paese ha la classe politica che si merita. Tutti ladri, sono tutti ladri, cazzo, ma ti pare giusto, cazzo, che un politico prenda dopo una legislatura, dopo un giorno che è deputato, può anche non andarci, è dubbiare vitalizio. Ma giusto ti sembra che debbano prendere la pensione prima di aver maturato i contributi come ha fatto mio padre, 50 anni di lavoro e non si è goduto manco della pensione, che se l'hanno mangiati loro i contributi, questi gran bastardi. Sì, fanno schifo, sono e mangia soldi, sono delle macchine e mangia soldi i nostri politici, poi per quello che fanno mi, buoni, e vabbè, riprendi Gianni, fai chiarezza tu. Cosa faccio chiarezza? Sono cose risapute Marco, quello che sto pensando è che devo restituire così ancora, capito? Non mi è ancora guarito, ci stava quasi chiudendo il punto, adesso di nuovo rientro l'amore e mi si abbandona. Mi hanno telefonato stamattina che sono di sera tra l'altro, quindi la sera non mi ascolterete perché mercoledì sono di sera, almeno mercoledì, poi non so gli altri giorni, dopo devo guardare il tour. Ma se non rientri cosa succede? Che sei automaticamente licenziato? Ma che bastardo che so, proprio bastardi. Se uno si tiene o la salute o i soldi, vigia, o guarisce il piede o continua a lavorare. Però essere costretti così è proprio boh. Poi il fatto che licenziasse l'Inps non lo sapevo, io credo che a licenziare fosse sempre il datore di lavoro, non l'Inps. A causa li avrei fatta a tutti. Non sarei entrato a lavorare in Maria, ho dovuto pagare il bono. A chi cazzo va a pagare la vita sua anche su gatto di supermercato di merda? Lo so Natalia, lo so, purtroppo le cose pare che siano così, non ci può fare nulla lui. Ah, e poi i sindacalisti lo stesso, non fanno niente per mamma, per quel casino con la scuola, non hanno fatto niente, sono lo stesso alla stregua dei politici. Ma non si mangiano, non muovono un dito. Non muovono un dito, però a mangiarsi i soldi della tessera già se li mangiano. Ma infatti i sindacati andavano bene negli anni 70 forse, adesso non servono più a niente. Non... Boh. Comunque fanno poco, quel che fanno è poco. Vabbè, corsi sempre, hai notato Natali, sono sempre i soliti discorsi che facciamo. Una volta ho fatto caso a uno che mi doveva dare i soldi, cazzo. Gli ho portato il gratuito patrocinio perché ero disoccupato. Quando mi ha dato l'assegno si è trattenuto 700 euro l'avvocato del sindacato. Di buon gusto, buono sindacato. Ma questo è successo a me. Sì, sì. Ma i sindacati non dovrebbero mettere... No, forse sto sbagliando io. Non dovrebbero mettere un avvocato gratuito ai sindacati, lo sto sbagliando io. Gianni, tu niente le sai. Ti parla sopra, pagano la regione, quindi questo avvocato è stato pagato da me e dalla regione. Eia, Gianni ripeti, dai, Natalino certe volte riprende assieme a te e non se ne accorge. No, non fa niente, deve essere, non mi ascolta, cosa vuoi ti dica? Io sono in giro in mezzo ai palazzi, quindi non lo so come sto arrivando. Ma dove sei? Io sono a... Sì, 9.25, qua è di lusso, no, diciamo che riprendete assieme, riprendete nello stesso istante, capito già? Dicevo, cioè i sindacati non ti mettono un avvocato gratuito, pagato da loro o da chi, te lo devi pagare tu, e allora tanto vuole andare dall'avvocato personale e lo metti in mano sua. Ma come funziona esattamente? Il sindacato ha l'avvocato, e può impugnare per dire licenziamenti e tutte queste cose qua, però se riesce magari a concludere, allora praticamente se riesce a concludere la situazione sicuramente ti chiede i soldi. Da quanto stai dicendo Natalino, io non lo sapevo, ma dovrebbe essere così. No, io non voglio pagare nulla. Ma cosa va mio? Lo gratuito patrocinio, che significa che tu non lo devi pagare perché lo paga la regione e l'avvocato. Lo paga. Quando tu gli porti così che sei disoccupato, che non puoi pagarlo, allora te lo paga la regione e l'avvocato. Questo invece è stato pagato dalla regione e da me. A chi sa pratino duri di là, il bastardo. 750 euro. Se per la parcella locale, gli avvocati potevano uscire, se non la parcella per loro. Sono ladri legalizzati. Dov'è? C'è poco veloce col dito. Ma sa di chi difende i delinquenti? Lo faccio. Come gli sia l'avvocato? Adesso ve ne dico una io. A mamma il provveditorato ha perso i documenti, gli ha mangiato qualche anno di pensione, no? È andata ai sindacati, quello in via 4 novembre, no? Un conoscente mi ha detto: lascia perdere i sindacati che non fanno niente, metti la cosa in mano al tuo legale, al tuo avvocato. Mamma non l'ha fatto, ha creduto ai sindacati e non ha avuto niente e non avrà mai niente con i sindacati, capito? Però bisognava farlo questo 10 anni fa, non adesso, ormai è tardi. I sindacati adesso sono quasi tutti venduti. Noi riferiva le cose che vi dicevamo ai principali, tu ne vai a bustare, quando noi ci demandavamo delle cose tu le riferiva ai principali, capito? Poi l'hanno assunto loro e gli hanno fatto fare al CEDI, gli hanno fatto fare il contrario, praticamente invece che difenderli gli operai, lui conosceva le leggi anche per buttarli fuori e per, capito? Ha fatto il lecchino, insomma. E questo qua li riferiva tutto, prendeva le bustare e le riferiva. Noi ci guardavamo male tra di noi, dice: ma chi è che cazzo se nelle riunioni va a riferire, chi è il bastardo che va a riferire? E invece era lui che diceva tutto, capito? Sono rientrato, ogni sindacato ha il suo patronato, è il patronato che è legale, il sindacato non è legale. Eia, vabbè, comunque che vadano a ruffianare è uno schifo, proprio sono dei venduti, fottuti. Natalino ce l'ha. Mamma mia, speriamo di no, Natali, che non debba restituire, e se no da dove te li togli i soldi? Vabbè, con una riba la lettera che vogliono i soldi, attacco la cinghia al coso, al fucile a pompa e vado con quello all'Inps. Il coraggio di chiedere gli insulti. Ma non il coraggio di mettere le manette, però io non posso dire il contrario, perché mi attengo a questo discorso, perché ormai il sindacato mi ha preparato tutti i conti, mi ha seguito tutto quello che mi doveva seguire, mi ha dato una grossa mano, ma non solo il sindacato, il patronato del sindacato. Però attenzione, il nostro sindacato è quello dell'azienda, ok? È quello praticamente che ha a mano, non è Cidre, non è Will, non è insomma, non sono quelli, capito? E neanche la CGL, è un altro sindacato che a me mi ha seguito da A alla Z e mi ha trovato la soluzione giusta per poter fare le cose fatte bene, ok? Poi da sindacato a sindacato cambia, non lo so, mi astengo da questo discorso. Vabbè, comunque nel caso di mamma i sindacati potevano dire: guardi signora, non siamo in grado di risolvere il suo problema, si rivolga al suo avvocato. L'abbiamo fatto 10 anni fa e forse si otteneva qualcosa. Va bene, pazienza. Cosa già? Ma è toia! Magari se ne fate il sindacato un po' più piccolo che il sindacato. Toglievo piedi con tutta la documentazione e tutte le richieste che c'erano da fare, capito già? Quindi da sindacato a sindacato, purtroppo è così. Vabbè, riprendi Natali, spero che non ti succeda. L'ho visto l'altro giorno, l'hanno fatto vedere l'altro giorno a Quinta Colonna questa discussione, che appunto molti pensionati debbono restituire indietro i soldi che gli hanno dato della pensione, oppure non togliendola devono restituire un tanto, stanno arrivando lettere a gogo, capito? Quindi non capisco il perché, non so il perché, io dal prossimo anno farò in pensione, però devo aspettare 2 anni prima che me la diano, quindi no, non me ne frega assolutamente niente, fra 2 anni ne parleremo, per il momento campo con i soldi che ho, ok? Ma la te- l'attesa non è troppa. Come mai dopo 2 anni? Perché ho chiesto uno scivolo di 2 anni e purtroppo devo raggiungere quelli, capito? Comunque è un discorso un po' lungo, ma a me mi fa bene lo stesso, non ce n'è problema. Vabbè, tanto hai la buona uscita, no? Beh, penso proprio di sì. Penso proprio di sì, capito? Perciò non ne ho problemi. Grazie a Dio, problemi non ce ne posso stare tranquillamente al mio posto. Poi deciderò se prima dei 2 anni istiguermelo, non lo so, quello è un conteggio che faremo dopo. Per il momento l'importante è starmene a casa, tranquillo e sereno. Sì, vedrai che ti annoierai, amico, non dovrai più uscire alle 6 di mattina. Ti annoierai, comincerai a ingrassare. Non mi annoio perché ho tantissime cose da fare, non ti preoccupare, tante, ho dei progetti, non me ne sto seduto qua a parlare al baracchino, anzi mi sentirete ancora di meno. Ok, dai, va bene, avanti Natalino. Andiamo a pescare a oltranza. Bravo Natalino, vedi, andiamo a pescare a oltranza, non ce n'è problema, poi ci sono altre cose in arrivo, perciò non mi preoccupo, guarda, l'importante è non andare a continuare a fare quello che sto facendo, perché se no un'altra estate come questa mi si buttano in tombarella. Non sai perché stanno mandando la lettera a tutti, quelli invalidi civili, quelli, a tutti quelli che prendono la pensione praticamente. Devi portare questo foglio al CAS e te lo fanno firmare. È una dichiarazione di responsabilità praticamente. A me non me l'ha potuta fare perché non sapevo quanto ho preso lavorandomi, perché io non dovevo lavorare, è quello il discorso, che non vuoi a travagliarti se invalido, però non me la fatti, perché se tu superi i 5.000 euro, secondo loro, devi durare in A, e vediamo cosa mi dici Macuri, quando dice poi tu, le cose che mi ha dato il comune, la dichiarazione unica, io già ho dichiarato tutto, ho fatto le cose in regola. E allora se hai fatto le cose in regola, fregate. Non l'hanno fatto vedere Marco, non so se lo segui Quinta Colonna, io lo seguo spesso. L'hanno fatto vedere proprio a Quinta Colonna che molta gente deve restituire questi quattrini, non so il perché. Ui, la cosa preoccupante Gianni, ma non perché è preoccupante veramente che un'azienda si possa comportare in questa maniera, sapendo che c'è una patologia abbastanza delicata, abbastanza grave, continuare a sfruttare la gente, per che cosa, non riprendi già? Ecco, ma l'aspettativa non la può prendere dopo la malattia che ha preso qua. Andatene in aspettativa. E così a gennaio si va già a 7 mesi di malattia. Quello è il problema. A me la decisione era quella, ok, ho 2 anni di aspettativa oppure questo scivolo che mi ha dato Cagliari di 2 anni, e io ho accettato lo scivolo che mi ha dato Cagliari per 2 anni, perché in aspettativa sì, io la potevo prendere, però non mi liquidano, devo aspettare 2 anni la liquidazione, è un cosa a gampo, invece in quel caso mi liquidano e quindi, capito, vado praticamente via, non sono più in forza, l'aspettativa sei in forza, quindi non ti liquidano, non sei licenziato, mentre io invece ho chiesto proprio il licenziamento, ok? È diverso, perché mi liquidano e basta, e ce la faccio tranquillamente, non ne ho problemi, sono abbastanza soldi. Quindi è così, Gianni ti ha risposto, se lui la può chiedere l'aspettativa, però se c'è un fondo per stare in aspettativa 6-7 mesi va bene, ti dà vai e ciccia, però è sempre un rischio, non te l'hai capito. Poi chiedimi, non è per altro, perché se si riapre è un casino. Quello che ti volevo dire io, perché se lui lo sforza ed è pesante, va ramassona pesante il gatto, quando è due mani in piedi è un casino, così non li guarisce mai. Io sono solidale con Gianni, ne abbiamo già parlato di questo, però il problema è l'azienda. Se l'azienda non trova una soluzione, il problema è quello, è solo l'azienda che deve trovare una soluzione. Dire ok Gianni, per 40 anni ci hai servito, ci hai dato, sei arrivato, questi ultimi anni che ti mancano per andartene in pensione, rimani in ufficio, ok? Rimani in ufficio, mio fratello è in ufficio e c'ha la stessa patologia di Gianni, ok? Però è un dipendente regionale, è in ufficio a Corte Santa Maria, a Lazio, mentre prima era giù al porto e si muoveva a destra, a sinistra, a tira e molla, capito? Adesso è in ufficio, al centro no. Non fa commissioni, porta le circolari da un piano all'altro, però è in ufficio, quindi l'azienda l'ha aiutato e il prossimo anno va in pensione, tranquillo e sereno, senza avere nessun problema, mentre questa azienda di Gianni è un'azienda un po' tosta, non capisco il perché, non posso esprimermi perché non so il perché si comporti in questa maniera, capito? Riprendi Marco. Vabbè, ma loro scaricano le colpe sull'INPS, che l'INPS che licenzia se lui non rientra. Forse in ufficio hanno già la persona che riesce a far tutto e quindi in ufficio non lo mettono, boh, non lo so, guarda. Sembra che ti aiutino, ma in realtà non è che l'aiutano, vero già? Sto uscendo, sì. Sì, sì, e Gianni deve rispondere, Marco, io... Cosa vuoi ti dica? Io capisco il problema perché, ti ripeto, mio fratello ha la stessa patologia di Gianni, poi ha avuto un incidente, l'hanno investito e quindi ha dei grossi problemi al collo, alla spina dorsale, non ce la faceva più a fare determinate cose che faceva prima e l'hanno messo in ufficio, punto e basta, quindi è l'azienda che deve dare una mano a Gianni, non è l'INPS, non è il medico, non c'è nessuno, l'azienda deve riconoscerle il suo operato lavorativo e capire che lui in questo momento non ce la fa, devono dargli una mansione piccola, piccola, dove lui non può sforzare il piede, punto. La guida è uno che scarica la roba e lui guida solo, se lo vogliono proprio aiutare, anche se non lo mettono in ufficio. E anche quello è un casino, deve guidare con un piede solo, tutto, freno, frizione, acceleratore. E se il destro deve usare per l'acceleratore e per il freno. Il destro mi pare di ricordare. Ma poi l'ho visto me com'è. Ha usato pure Pina Brooks. Chissà che è quel babbeo che ha buttato la bottiglia lì nell'erba, che ha rotto la bottiglia, eh? Che non fosse successo a lui, me, quello che ha rotto la bottiglia. Sicuramente sono quei billoi di ragazzi, no? Perché trincano e rompono i vetri là. E allora, quegli ubriaconi, drogati, ubriaconi, drogati, fracichi anche. No. Va, è una cosa... Perché anche nuova questa azienda, no? Non è la vecchia azienda che aveva Gianni, perché quelli lo sanno in 40 anni cosa cazzo ci ha fatto Gianni. Invece ci sono nuovi, sono gente che l'ha rilevata quell'azienda, no? E via, 35 sono, no? Fossero 40 sarebbe meglio per la pensione, no? Ah sì! E via, 36, sentito è andata lì. Ma a 30 anni uno lo devono, a 30 anni di contributi lo devono mandare in pensione a uno, specialmente se fa dei lavori usuranti di quel tipo. È avere, quello bisogna vedere se rientra. Se già, informati bene, perché se rientri come lavoro isolante sono costretti per la patologia che hai, punta ai piedi, costretti. A me gli ultimi 2 anni che lavoravo alla Saras, all'impianto del fenolo, me li hanno accettati immediatamente, anzi mi hanno detto come mai non l'ha fatta prima la domanda, capito? Tirano 100 euro in meno, ma cazzo, ti dammi una pressione normale, basta, mandami a casa. Se sono... non posso lavorare. Non è dovuto che ci avevo lavorato il giorno, non ne vado al lavoro, ma adesso lo dico. Brucia a casa in una maniera... non le lascio. Vabbè, già. Io capisco che stai facendo di tutto e di più, però c'è qualcosa che non funziona. Mi dispiace, c'è qualcosa che non funziona lì, ma non da parte tua, da parte loro. C'è una presa di posizione molto molto dura e non funziona così. Datemi un secondo che hanno suonato il campanello e è arrivato mio cognato, un minuto. Oh, il colpo è natalino, Emmy, se non avessi rotto quella bottiglia, ubriacandosi. Adesso c'hai un casino che passi, Marco lì. Oia. Ma drammatizziamo un po', me. Ma che schifo di paese davvero, che vergogna di fronte all'Europa anche. Prendo la casa, cambio! Eia, mi vergogno di essere italiano. E non sei solo. Vedi, mio cugino Luca, quando si è accorto che in Italia non c'erano sbocchi, ha fatto il chigno all'Italia, se n'è andato a lavorare, ha lavorato in Germania, in Polonia, in Inghilterra, poi ha lavorato a Dubai molto, sempre nella ristorazione, poi da Dubai è andato adesso, siccome c'era un po' di ambiente contro i bianchi, no, contro i cattolici, adesso si è trasferito in, come si chiama, in Irlanda, è stato anche a Singapore, non so se mi spiego, ha visto mezzo mondo. Mi senti, Natalia? Ha ragione, si occupava i denti. Oggi è spadiglio, me. Ogni spadiglio, caspita quanto sta facendo buio presto, vabbè, presto relativamente, che c'è rimasto qua, qualche Cristo c'è rimasto qua. Marco, ci siete? Già ci sono, già, ero... smesso poco fa perché mi hanno telefonato. No, perché non sentivo nessuno, Natale, per quello non vedo. Non sentivo nessuno a parlare. Ho detto basta, perché mi sono dimenticato, forse ero in macchina, c'è dovuto risciare la fredda, non se l'ho visto. C'è entrato prima. Io ho capito, ho chiamato a Marco ma non mi ha risposto. Ehi Natali, ti stavo parlando, poi non ha più risposto nessuno. E ho detto, cosa sul socco va vedendo la giura? Marco, perché sono andato a casa, sono andato a mettere il borso alla posta, non sono dimenticato in macchina, capito? Allora sono dovuto riscendere giù a prenderlo. Non me lo toccano mai, non si sa mai nella vita. Quello che non fanno un giorno lo fanno in 100 anni. Sì, no, non parteggia, stavo parlando a Natalino e come sempre scompare, lo chiami più volte, niente, allora ho detto, beh, stavo per dire come Paoletto, pigliate a link. Marco, ho abbassato il volume perché mi ha telefonato mio fratello, va a tirare giù su Dusta. Non mi hai risposto perché sei un ubriacone tragico e adesso parli con un muro. Va bene, dai, ti perdono. E Claudio è rientrato? Ma non ha ripreso. Quando chiamava a te non mi ha risposto neanche lui. Gianni non poteva perché stava prendendosi il borsello. Sì, è meglio non lasciare niente in macchina, anche perché lì è aperto, può entrare chiunque di notte fonda e... come questo che abita vicino. Parcheggia la macchina e lascia borsoni, coso, valigette in vista. Non ha mica i vetri blindati, no? Ma lui c'ha l'arma letale, Gianni. Io avrei messo a Tyson in macchina, certo. E la mia ne vuoi? Eia, l'avrei messo dentro senza mangiare una settimana. Così si mangia chi? Chi mette la mano dentro la macchina se la mangia? Io c'era un pastore belga così, cazzo. Molti di più avvicina alla macchina di lui, di padrono. Finta dei denti, Mattia. Si va a dire, si muovono i suoi denti di brava. Oh, a me piace quando lasciano quei cucciucci, no? Quei cagnolini piccoli nelle macchine, no? E se ne vanno da Auchan, dalla piazzetta, no? Che sono soli i cagnolini. Allora mi avvicino e li faccio, li ringhio attaccati al vetro, no? Li faccio in casa e quelli, balbagiando proprio, si sbattono la faccia, si sbattono i denti sul vetro, proprio come sono... imbestialissimi. Lo so. Cavolo. Il mio lo faceva, però era intelligente, ma la sorte. Già lo sapeva lui a chi abbaiare, era dentro la macchina. E avvicinava mio nipote, quello piccolino, quando era piccolino, no? Un cazzo. Non faceva. Ma si avvicinava a uno. Oi, accorgeva. Eia. E devi vedere quando mi metto faccia a faccia ringhiando da dentro il vetro, e a quelli gli escono gli occhi abbaiando, e la baba pure. E sono tutti chihuahua, pincher, cagnolini da leccami. Ma sembrano, caspita, proprio sanguinari, da quanto sembrano feroci. E quelli sono i più terriosi. Cazzo, sei mio, e piccolino, cazzo, l'altro giorno, cazzo, per poco si voleva mangiare uno di quei cani grandi. Cazzo, e poi sta due zampi a Magendi, cazzo, io tenendolo per il ginitaglio. Cazzo, io ricordo così, abbiamo che si entrava di Trugani, direi. Ehi, già rido se uno di questi cagnolini quando lo stuzzico, magari per la paura si piscia addosso, piscia tutta la macchina. No, quelli sono i più curiosi, quelli piccolini, non temo neanche i cani grandi. Lo fai io, i cani grandi, no, non li sei. Anzi, li ammaia, figurati. Eia, ehi, finché non beccano il morso giusto, allora sì che non abbaiano più. Ma questo è curioso. Signori, è arrivata la pappa, dai, io mangio. Rimango in ascolto. Mangia, mangia. Claudio, che fine ha fatto? Non lo so. Troppo è mancato, l'ho telefonato. Ma quanto fa la stavo telefonando a Colò? Vediamo che non ti porti amici. Come te la fai questa, se tu dici a Colò? No, ha aperto la porta perché è arrivato il cognato. Ma la faccia, io troppo appellato per la tua battuta. Cosa stai mangiando? Hanno mangiato. Quarta finita. O si mangia o si parla. Vabbè, mangia. Se ti ganasci. Vabbè. Se non parlo io non parla nessuno. Questo è pollo con le olive. Ma io nata lì, parla da solo. Oh già. È venuta mia moglie, così l'ho portata in giro a questo delinquente assassino del cane. Mi sai, non è vicino a me, cucato. Eravamo vicino a me, se poi sono andata a mandare ad accompagnare prima qui a prendere a Marco. Se l'ho portata a casa. Okay. sembrava, quando lei mi imbocca il vicolo, anche senza aprire la porta, attacca a maiare, però fa un abbaio tipo cucciolo quando è Concetta, quindi io me ne accorgo che è Concetta che sta avvenendo. Non fa l'abbaio normale, fa un altro abbaio, disperato era. Si fa grande concetta, la conosci già tu, a Cesare ma non mi dire manco guarda tutti i denti e va proprio alla porta, catturati che c'è parlato della mezza non si ghezza, perché da quando era piccolo lo sfotteva lui e non lo può vedere manco fatto a pezzo, ogni volta che Cesare cazzo lo abbaglia, adesso è salita altra gente, non ha abbagliato, vuol dire che non era lui. Mi hanno mandato un messaggio se stavo vendendo il DAX, Laggiù mai vieni a pigliare Ciro. La gente, sì, lo sto vendendo, mi dai 600 euro. Ma ho detto, quello che sto venendo a prenderlo. Ci ho detto, gli ho detto, sì, adesso butto il prezzo alto, avesse a bocca. Oh, ha detto, sto venendo a prenderlo. Ah, ti nani che lo tiro dopo. E allora, quella è la radio più grande al mondo. In provincia di Sassari ce l'abbiamo solo in tre, io, Marco e Walter. Ma io l'ho detto così, non ho detto così, non mi rompe più le scatole perché mi sta ammazzando questo di... vabbè, non dico che, ma non è di Sassari. E ha detto, sì, vieni a prendere, portami 600 euro. Ma ha detto, guarda che sto venendo a prendere, vai, non ci venire neanche che non te ne do, neanche a 600 euro te ne do. Di compri, guarda se ti trovi in quella scatola, perché quella che hai dato a me delle valvole non ci sono quelle del DAC, sono le 6K DC, adesso non mi ricordo, ti do la sigla esatta, quelle fini lunghe, guarda se ne hai qualcuna. Sì, me ne avevi dato, però sono quelle a piedini col coso di plastica, capito? Col coso di plastica, mentre a me mi servono quelli a piedini rigidi con i piedini normali. E sono quei due valvole fini, sono fini, quelle del DAC. No, già io lo sto accendendo il mio, l'ho anche usato da poco, però da pochi watt, non da neanche 5 watt, capito? Perché le valvole, te l'ho spiegato, sono esaurite, vogliono nuove. Guarda se le trovi, ho già in mezzo a tutta quella roba che hai. KDC sono dello spigno. No, sono più grosse quelle del Dronstadt, sono basse e grosse quelle, queste sono lunghe e fini, capito? Sono 6DK8C, non mi ricordo, le ho tolte da poco per pulirle, le ho rimesse, però aprire questa radio ci vuole, mi pare va 26 viti, lui. Quindi l'ho richiusa, l'ho lasciata così, capito? Vabbè, se ti capita, poi quando ci vediamo assieme, dai. Cosa hai detto, Natali? Sì, KDC, sono di lineare, di coso, di lo Speed, mi sembra, le montate, un BV-130. Oh, quelle monta? Oh, sì, KDC. Non mi ricordo la sigla della quella del DAC, sono 6DKDC o 6DKJ6, Japan 6, boh, non mi ricordo. Devo vederle di nuovo, il giorno che ho tempo lo riapro e controllo, capito? Che è un casino aprire sta radio, a togliere anche i maniglioni, tutte le viti da davanti, sopra, dietro, se no poco viti, perché è un bel pesante, quindi è tutto pieno di viti, capito? Va bene, dai, ciao a Massimiliano che sta confettando olive, ciao a te Capri, Marco, Natalino, Gianni e chiunque fosse in ascolto. Dai, se rimanete qua ci sentiamo dopo, devo passare dall'altra parte urgente, dai, ci sentiamo dopo, vai Marco. Marco intanto non le prese che sta affogandosi chissà quale, tipo killer. Ciao Lugarie, ciao. Vai, vai, la taglio con Poma, dove va? Ciao, Cla. Ciao, con Poma. Ma è risotto, Natali? Ma dove stai modulando? Risotto? A caldo. Non ho risolto nulla, no. Mi sto facendo l'antenna nuova, la canna da testa. Ah, ecco, per carità, che casino. Ma radio è troppo forte. No, va benissimo. Sono come l'omologato, lo dici. Solo che gli ha attaccato l'MDC4, l'ho messo basso l'MDC4 per non disturbare. Bravo, ho capito. Via. Mia nipote è caduto il telefono in acqua. Adesso cerco di se riesco ad aprirlo. Mamma mia. Non ha fatto niente. subito, dipende da che mano vuoi fare. Chiama 12BY7, l'altro è 6DG6GT. Può darsi? Oh. Sì, saranno quelle. Perché non sono le 6K6, le 6K6 le montavano, mi sembra, di 130 allo stile. Eia, ma perché sono diverse qua? Una sarà la pilota, boh. Ma si era strana, guarda, 6DG6GT. Oh, vabbè, lo sa lui. Vabbè. Stavo cercando appunto le valvole a beva. Roba antica, me. Obsoleta. Che vuoi che ti manca? Sempre che si trovino quelle valvole. Io dico, ma che a comprarne in attacco. Aspetta, parlo un capito della sperata. Aspetta che Natalino forse non ti ascolta. Ripeti all'inizio cosa hai detto, la sigla Capri. Eia. Sì, qua leggo queste radio con le valvole originali, quindi 12 bravo Y 7 e l'altra la 6 Delta Golf 6 Golf Tango, capito? Strane sono, non le conoscevo io queste. Leia. Perché tu cosa c'hai a fare con le mani? Niente. No, stavamo parlando di quello del DAC di Claudio. Ah, quello lì ti ha trovato le mani sicuramente. Penso che ti ha trovato. Devono essere un bel grandi anche come valvole, o no? Ecco che mi aveva cambiato la moto e poi l'ho usato un po' perché sono esaurito da sole. Boh. Vabbè. C'è un lineare in campagna che ha due valvole. Un giorno con quel lineare mi sono defibrillato, autodefibrillato, ma con questa cosa ti volevo cavare i valvoli, ma con questa cosa guarda. Perché a cupo la corrente, Natalia, anche dopo che tu stacchi la spina, arriva la corrente lì. Però, già tappano K2. Non arriva qua, qua non arriva, perché c'è l'antenna bassa, lì sta facendo basso di segnale, ieri lo sentivo per dire, però era molto apparecchio. Mi deve scusare, ma non lo sento io. Lega. si arriva a 8, non 8 e mezzo, e meno di 8 e mezzo, 8 e un quarto di segnale. Comunque la radio è buona. Avete notato che la tremenda propagazione che c'era nel pomeriggio è sparita? Perché dopo se ne intende? Eia, e beh, era ora, caspita. C'era un abolotto prima. A me 8 e un quarto, quindi meno di 8 e mezzo. Eia, io quando ti arrivo a te già. Eia, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, va bene. Se le comparate sono. Ho capito. Tutto, ma in che l'ho controllato? Lo squadro l'ho controllato. È strano che mi arrivi così passo. Sì, ma se non avesse incanalato con il segnale, come dici tu, da me io sarei arrivato 9, sei arrivato 4 come te. Guarda così come ti arrivo, 1, 2, 3, si è aperto la radio, dai. Ah, che fine sta facendo già. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ehi, vabbè, ma già, quello Smith l'hai visto qual è? Sembra lo Smith del Pony, almeno credo che sia quello. Più è cercato lui, stanno parlando. Ehi, ma era apparso dopo aver sentito Valerio sotto. Valerio? Ah sì, buonanotte, Eugenio. È buono, dai. Santiago 7, 7 e mezzo. Ehi, ti ascolto, quindi ciao, buonasera. Non ti ho risposto perché stavo parlando già di capitolo, così non lo sentivi, dai. Buonasera Eugenio, ben sentito, dai. Qua stai arrivando a 9, dai. Arrivi se con quei scempi comunque da 7 a 9 vai. Con quei scempi. Se in movimento, hai fatto, ci vede qua da 7 vai a 9, poi indietro, poi va a 9. Vabbè, comunque la radio si sente bene, gente, dai. Finalmente ti si ascolta come si deve. Avanti, la sera. Puzza. Io sento male con questo ante, ciò che è ben forte. Lampa di tutto, Natalino. Capito, rifare il passaggio perché non ti hanno sentito, probabilmente ce la stavamo urlando. Vedi cosa vuol dire la bella fretta che si sente bene. Riprendi e fai il passaggio, a quanto ho capito stai andando al market a comprare, così. Ehi, ehi, là, va bene, sì. Riprendi la casa. Ehi, ehi, ti prego, stavo guardando la cosa c'era in televisione qua oggi. Che tu hai scelto bello? Niente. E uno su Rai uno ce n'è bello, vediamo. Cazzo, c'è Swedish, coraggio, fatti ammazzare. Rispetto a Calla, carissime. E da voi vedete, Roma violenta. Quei film gialli. Natalino, vediamo se sei preparato. A parte il revolver, il modello 29 Smith & Wesson, che pistola usa lui dopo in quel film? Te lo ricordi? Ah, 44 Magnum, e poi ce n'era una automatica, pure ne aveva. Eia, allora quella pistola era, perché non esiste più, era della AMP, che sarebbe Auto Magnum Pistol, ed era un 44 Magnum per pistola automatica. Se vai su YouTube c'è la stessa pistola, capito? È un bello per adattemi, sia quella. Invece nel giustiziare della notte 3 ha usato una Wildy Magnum 475. Devi vedere a uno come lo riduce, lo apri in due proprio. E sono calibri forti quelli. Comunque bella è quella 44 AMP, molto, molto elegante come pistola, solo che roba costosa. Poi non trovi più i boccioli, mi lo sai, devi pigliare certi boccioli tipo, devi segare i boccioli, ma come si chiamano, non mi viene il nome, dai. Le pigliano certe cartucce tipo 762, li tagliano il bossolo e si fanno la cartuccia per quelle pistole lì, perché a malapena trovi le munizioni. Quel gioco lì lo fanno anche per le carabine, lo fanno, di tagliare i bossoli, perché ci sono bossoli corrispondenti che sono più lunghi, e allora, perché hanno il colletto, gli tolgono il colletto e gli inseriscono la palla su, gliela fanno a misura proprio il boss. Eia, eia. Sei armi rare erano. Comunque io l'ho vista incepparsi e sparando. Ho visto un video di YouTube che sparava e si inceppava. Molto male. Se un'arma ti deve salvare la vita, non si deve inceppare. Ecco perché io certe volte preferivo il revolver. Simpatizzavo molto per il revolver. Povero Cesare, ce le aveva le 44 Magnum. Ho sparato al campo con quello. Cioè, qualcosa di impossibile. È automatico che siano riuscite a incepparci. Beh, è automatico, giustamente. Se non le tieni pulite, cosa, si inceppano sì. Possono incepparsi anche perché hanno dei bussoli difettosi. Per esempio, c'è Claudio, quell'amico italiano che lavora in America, quello lì c'ha una calibro 9 che si inceppa con certe cartucce, capito? Sempre, se mette quelle cartucce si inceppa la pistola. A me per dire, con le più chi cazzo si inceppa, ma non è toccato che le più ci sono le più, la 9 lunga, la blu, si inceppa. Le migliori, le fiocchi sono delle tronzate, le migliori sono quelle che mi faccio io. Ma va, Odessino! Non ce la paura! Anzi, devo andare a Macomer a prendermi dei bussoli, fiocchi me li prendo i bussoli, ma come le carico io sono delle bombette. Perché ci puoi mettere polvere da sparo? Non se le carico io la polvere, la scelgo io quella che metto. Non è pericoloso, Natale, per chiuderle come è chiuso. Come le chiuso? La presa, cioè, me le costruisco io le cartucce, sempre ho fatto così. Quelle per la pistola me le faccio io. E sono precise. Cazzo, sono di lusso. Le posso fare più leggere quando uno va a fare le gare, se le fa più leggere, non le fa potenti potenti. Quelle sono commerciali, no. Quelle che danno al tirassegno sono commerciali, no. E fiocchi le fanno, sono cartucce fiocchi, quelle. Le faccio anch'io di piombo dolce, ma non c'entra la palla, è la polvere che te la fa, o più forte o più debole. Una volta, lo sai, mi è capitato a me con quella pistola che avevo prima, quella calibro 9 che avevo prima. Mi sono dimenticato di mettere la polvere dentro e ci ho messo la palla senza la polvere. L'innesco, ecco, beh, allora sai cazzo che ha sparato ugualmente e mi si è bloccata la palla dentro la canna. E come si è fatta la canna? Con un radiale d'antenna. Infatti ne ho un pezzo in macchina sempre apposta. Col martello, tacchi me la cavi, era di piombo dolce. Marco va che la si incappa da voi. Che con lo sparo cazzo si incassa un pezzo. E non c'è la spinta di tutto, è normale che incassa. Marco, tu vai sparare. E dipende che pistola è. Le automatiche sono più soggetti, invece quella tamburo, pistola a tamburo è difficile che si inceppa. Poi sono anche più precise quelle a tamburo. Naturalmente Natalì, soprattutto con i revolver puoi scegliere il peso della pallottola in grani, o già grani, non grammi, grani. In grani si misura, allora, io ho la bilancia che misura in grani, la polvere e la palla la compri, io uso quella da 124 che sono abbastanza pesanti, se no quei bersagli non te li fa terra, capito? Poi adesso non mi ricordo quanti, un grano corrisponde a non so quanti 0,0 coso grammi, perché io prima avevo capito grammi, 20 grammi di pallottola, io sono un cannone. in grammi si misura sia il peso della palla che della cartuccia che della polvere, in grammi si misura. Proprio cercare delle cartucce per il fucile a pompa, di quelle più leggere, quindi rampami l'iPad, sono troppo potenti e sono le più leggere che ci sono. E gli fa la gamma troppo grossa, paghi il filaggio di tutto. Oltre a non avere nessun recupero di gas né di inerzia, è troppo potente per tutti. A distanza ravvicinata fa il massimo danno col minimo beneficio. Ma è magnum o normale? No, è magnum. Già lo credo, mettile normali, si possono mettere cartucce normali su un fucile magnum? Mi pare di sì o no? Oh, yeah. Gira, li metto quelle, mi compro quelle cartucce dal filo al piattello, quelle lì sono leggere, invece queste sono a palla e sono anche cartucce, di 26 grammi, ma sono, no, 28 quella, che so io. Queste sono quelle da filo al piattello. Se le trovo a parlare, non si sì. Oppure palette in gomma che costano una barca di soldi. Per difesa. Io ho visto quelle del successo, ci parli di luci di ma quelle non hanno la potenza di quelle di casa. Quelle battono perché hanno la canna di gas a quei fucili. Invece il calibro 12 c'è la canna liscia, capito? E quella palla è a sé potentissima, 28 grammi. Ma se ne butta, addirittura c'ho il calciolo dalla fabbrica, mi dice morbido. Beh, si cudica, si chiata. E cosa si usano per i cinghiali a Roma, nella zona di Roma? La fine, quella zona di Roma, ma ci sono cinghiali che sono maremmati, quindi grossissimi, si dà il freno. Lo so, però va bene la caccia cinghiale perché c'è la canna, praticamente la canna non ha nessuna strozzatura, è 51 cm la canna del mio fucile, quindi la cinghiale va benissimo. C'è anche il calcio a pistola, no? Per farlo più piccolo, ma a cazzo non si può sparare, ragazzi, mi regalo lui. La devi sempre appoggiare, però se c'è quello che c'ha, si blocca l'impatto. Lo sto dicendo che è una cosa decidiale, è come che tu spari con una doppietta, però c'è una canna più corta a questo, quindi dà ancora più rinchiuso. Non ha nessuna distrazione se tu fai la canna, perché tu lo carichi manualmente, capisci? Ti fanno sei cartucce dentro. Tu muovi la leva, entra un'altra cartuccia, però è qualcosa di... Infatti qui c'è la pompa, non è che mi piace molto. Quello che c'avevo io da caccia a caccia, quello lì sparavo a una mano, e via se pure una carica semimagno, manco per le balle. Invece un dito, prova a sparare a una mano, se si dice. È micidiale quel fucile, va bene solo andare a caccia al cinghiale. Io a 50 metri gli ho trovato un buco, è preciso come fucile, se sai sparare è preciso, però cazzo dà troppo di culo, se un certo numero di colpi, tre scatole me ne ha sparato da 25 di cazzo. Da voi non l'ho più toccato, di così. Ma per andare via a tirare ci paga? Puoi andare anche senza porto d'arma, paghi 5 euro d'ingresso e spari, quanto ti pare ti piace. Ah, ecco. Ci paga l'ingresso e pure. Eppure per essere c'è un tipo cartuccio tutto qua. Vabbè. E le sa come per sparare le mettono loro? Sì, è del logico, no? A me me le danno perché sono iscritto al campo, capito? Ogni volta che entro io non parlo un danno, ma... Ah, ecco, questo è fatto. L'iscrizione, pagata l'iscrizione, fa. Non fa. Io non pago nulla. Mi danno i bersagli quando vado e sparo. L'importante è che mi raccolgo le cartucce scariche, perché il campo bisogna lasciarlo libero. Quando vorrei andare a polizia in Chile che non raccoglie un cazzo e mi trovo qui di parabello a rompermi le palle. Allora non devi venire. Ma cosa devi dire? Vanno a parare col mitra, cazzo, proprio questo cazzo di cartucce e cazzo del cazzo, che non vanno bene se la pistola mia sono più corte. Me ne accorgo dopo che le ho raccolte, perché sono più corte e se la fa la furia quando le carichi, allora mi tocca smontarle, insomma, col martello. Ma siete distanziati di moto tra uno e l'altro quando sparate, la state. L'ha chiamata la moglie, credo, ho sentito una voce di fondo. Ma parte che vuole entrare. Mamma mia, quanto mi fa incazzare questa internet. Mamma mia, quanto è lenta la connessione, mi girano le scatole. Mi girano proprio. Oh, devo smettere. Ciao. Ma non fai più. No, scusa, abbiamo parlato. Non fai più, why no? Natalie, sparito all'istante. Deve essere una 15. Ma vedi, se lui sta usando il baracchino omologatissimo, allora la colpa è di loro. Quanto è il tono? Quanto è il tono? Oh. Ma lui è. Stiamo parlando al 525, dai. Eccola qua, 475 Val de Magno. Bella bestia anche questa, solo che Natalino ha chiuso, non gliela posso mandare, oppure se la guarda la prossima volta. No, no, non risponde il telefono, sarà spento come al solito, lo stesso Pomponio, a Pomponio gli mandi una foto, se la guarda dopo 4 giorni, seppure se la guarda. Ma Pomponio è capito fuso. Oh, non l'ho sentito tutto il giorno, o sta male, o non lo so. Io spero che stia bene, capito? Non glielo auguro, però la deve smettere di fare quello che sta facendo. Ma per cosa? Per su? No, no, sta bevendo troppo. Lo so, ma non vedo che non c'ha altri passatempi. È una bottiglia, è due, è tre, è chiaro che fegato prima o poi, puff, vabbè, peggio, se non la capisce, mi vedendo il fratello è proprio. Infatti, è grande vaccinato, continua a fare quello che sta facendo, ce l'ha in casa il problema, se continua, a chi rimane invece non mi ha avvisato, comunque, sono problemi suoi, io guardo la mia salute, non quella degli altri. Mi dispiace, ma guardo la mia salute. Purtroppo quando... Aspetta, Pomponio, ci sei? Rispondi se ci sei. No. Quando il contesto familiare è degradato, si passa all'alcol. E se c'è palle sotto del contesto familiare, io me ne sbatto altamente. Penso a me. Correggimi se sbaglio. Vabbè, giusto, però con l'alcol non si risolvono i problemi, anzi aumentano. Capito, zio Mascoli, va bene così. Dai, c'è roba al forno, tra un passaggio e l'altro vado a controllare, riprendi già. Cosa stai cucinando di nuovo? La pizza, minore, la pizza, portato la pasta, l'aria. Ieri l'avevo messa in frigo, che è avanzata al pizzaiolo. Ho portato 4 panetti e l'ho già stesa, tutto, mia moglie la sta condendo. Adesso la mettiamo al forno. E anche io me la so portata, la Crai, c'era in offerta 1 euro e qualcosa, poteva comprare. Ho preso quella al sotto, come ci vuole. E dopo me la faccio, infatti non faccio cena, anche casa che se ne hanno portato un formaggio. Fai che non è, è proprio tutta buona veramente. libero. Tutti i lunedì io vado in Piazza dei Segni e prendo quello della Crucca, buonissimo, ti dico buonissimo. Poi lì prendo un formaggio che fanno loro molto buono, proprio da tavola, insomma, mezzo fresco, mezzo stagionato, buono. E poi c'è l'altro invece che prendo la ricotta a Mustia, quello di Osilo, capito? Buona, però anche quella bisogna, mamma mia, a me piace troppo il formaggio, a mia moglie, però bisogna stare attenti. Ti prendi Marco lì che vado a controllare la pasta. A me me l'ho fatto, te l'ho tolto. Ieri c'era forse già aperta, te l'ho tolto, era pieno di gente. Dove? Cosa c'era? Festa, mangiatoia, come si dice? Sagra? Cosa già festa? Cos'è cos'è? Ci sono le bancarelle, le stazioni, i vini, i formaggi, i vestiti del posto, insomma tutte queste cose qua. E c'era le fulmini che organizzavano le cifre. Fai un tanto, prenoti e vai. Lì conosciuto di gente. Bisogna organizzare, ma ma io non mi piace queste sagre paesane, si mangia, si beve, non mi piace a me sta cosa. Già non vado in piazza, come si chiama, Colonna Mariana, lì che vanno col piattino in fila a chiedere da mangiare, ma vai, non mi piace. No, ma con questa festa c'è una cosa diversa, fanno vedere i piscini, i dentro il paese, fanno girare il paese in particolare. Di chi è? Ah, quello calvo. Messina Graziano, eh. È il paese dove ha fatto qualche persone. Pensa, ma ci può essere più imbecille? Quello esce da galera dopo decenni e si mette, si fa spacciare droga, cos'era? Ma ci può essere più scemi? Ma magari è rispettato da tutti, è una spirina grossa, c'ha appoggio appoggio. Ma se devono andare al lavoro, di più del cui, devono andare al lavoro, praticamente faceva la guida ai turisti quando andavano a vedere su Travolta, roba del genere, forse a volte perché lui conosce tutti i posti, no? E dove andavano a scorsi, eccetera, eccetera, dove portavano le canzoni che si prestava. E da un lato questa agenzia gli ha dato lavoro, quando qualche è stato di studio. E potrebbe essere che non gli piace stare tranquillo. Magari facendo la guida diceva, beh, qua è dove abbiamo nascosto tale e tale che abbiamo sequestrato. No, ma magari conosci tutti bene, capisci? Faceva la guida, portava tutti i turisti, faceva girare per una volta e poi se li portava lì. Era il suo lavoro quello. Ma quanto pare non gli bastava. Tutto che ha fatto anche trasmissione televisiva, l'hanno intervistato, gli hanno dato tutto per andare a essere intervistato, sta facendo tutto. Eia. Ma persone forse che sono nate proprio per quello, no? Mi piace il crimine, capito? Ce l'hanno il sangue. Hai visto ieri a quel programma di incontri di Barbara D'Urso che c'era quel tipo che ha fatto 58 operazioni per la salute della famiglia, sembra una bambola, ha fatto di lì. Quelli ci hanno il cervello di resina, secondo me è gente malata. Ma uno deve essere se stesso, non deve assumere la via. Non capisco. E poi ce n'è un'altra che ha fatto l'operatore per assomigliare a parte, ci ha fatto pulire i quattro posti per fare. E c'ha gli altri fisici. Per carità, che si sono macchi, ma quando invecchieranno sembreranno dei fenomeni da baraccone, non lo sanno. No, ma adesso, cioè adesso Marco, se tu guardi una persona ti fa bene, perché? Cioè ti sto dicendo che sembra fatta di resina, non di pelle. Ha fatto 58 operazioni, immagino, per assomigliare sempre di più. E infatti sembra Mickey, quello che praticamente. Non capisco come faccia la gente a rovinarsi così e rovinarsi secondo me. potrebbe avere speso anche una fortuna, Capisce, quest'altro come ha mandato un messaggio. Ciao, prima di chattare con me, sono molto triste. Ma una bella donna, è quella che ti portano sicuramente. Quello è sempre il personaggio di un film, cioè c'è stato sempre un personaggio. Fidanzalino, già chiuso poco in fretta. Ah, già poco, no, devo spegnere. No, e allora se lui usa l'omologato, troppo c'è qualcosa che non va. Cioè non lui, gli altri, capito? Perché lui da lui non disturba. Lo continuerò a dire, lui da lui non disturba. Come si spiega che gli altri vengono disturbati? La colpa dipende dagli altri, dall'impianto degli altri. Rotta lì, va, già. E prima invece con poco dice il capo che lui continua e non è una più e dopo quando va, io avrei concordato per chiamare le autorità competenti, perché non è possibile. Vabbè, ma quando ti ho fatto sentire quella registrazione famosa io ero un po' demoralizzato, ho lasciato calmare le acque, poi ci sono rientrato però, non devo buttarci la radio, no? La Tena dice no, adesso io modulo, non me ne fatti nulla, poi già si vedrà, invece poi appena dicono roba sì, ma stavo per dire si caga, ma non è giusto, dai, cioè preferisci a non disturbare. Oh yeah. Ha ragione Claudio, che sono un istigatore io. Stavo dicendo, già, ma tu te la ricordi la 475 Magnum? Wild Magnum, era nel film Giustiziere della notte 3. Vagamente, Marco, non è che ci guardi molto su queste cose, uno che è appassionato guarda che tipo è, cosa io, nel vedo magari ti passano un po' osservate, capito? Ne facciamo vedere in film, perché anche per lanciarle sul mercato all'epoca erano considerate le più potenti del mondo, negli anni 70 forse, poi attualmente, caspita, hanno fatto il calibro per revolver 500 Magnum, Smith & Wesson 500 Magnum, che è una cosa incredibile. Il revolver è un mostro, è un mostro. Ed è la più potente cartuccia per revolver, credo. Perché vabbè, ci sono le 600 Nitro Express, ma quelle sono pistole monocolpo e non le conto. Credo che per revolver così sia la più potente. Ma già, se arriva la pistola a faccia, anche i più forzuti vedono pogna di in culo. Si usi le cariche piene, no? Proprio quelle Magnum. Perché molti usiamo cariche ridotte e ci vede. Ma quelle Magnum devi sparare obbligatoriamente a due mani. Se no te ne vola da mano la pistola. Il revolver, cioè, bisogna specificare, revolver. Vabbè, revolver, se tu ti chiudi. Solo che, vabbè, finché lo usi per fare video su YouTube, ma chi è lo scemo che si porta una cosa del genere? A parte che è grossa, non riesci manco a nasconderla sotto i vestiti. Cioè, chi è lo scemo che ce la porta? Perché se tu vai a difenderti, spari a uno e lo manchi, o comunque lo trapassi, poi la pallotta va, buca il muro, ammazza che c'è dietro il muro, dentro una casa, capito? Sono troppo potenti. Forse vanno bene per gli elefanti in Africa, per ammazzare i bisonti in Texas, ma per uso o difesa no, proprio da scemi, Oh, qualcuno, qualche scoppiato è capace di portarsela a me. Una volta siamo andati via Lombardo e ce l'ho chiamato per fare un intervento con l'ambulanza, perché è caduto, era mezzo duro, si è spaccato la testa. Quando andiamo a caricarlo rivediamo la pistola che gli si scappa in pantaloni. Sfilata del pantalone, questa pistola, polizia, sono sempre la polizia, vera vera o salve? Vera vera. Cazzo, io gliela, mentre era assortito, gliela avrei fregata, ma la sei riportato via. No, scherzo. Delinquente conosciuto magari. E quindi si sono caricati lui e la pistola. E non l'ha arrestato. Anzi, l'hanno messo, ci hanno fatto caricare l'ambulanza, sono saliti di più. Semiautomatica c'era stata, no? Tipo Bruni era, tipo la Bruni, credo, no, tipo quella che era la Bruni. La Bruni 92, alias 98, che noi ben conosciamo. Esatto. Beh, guarda che fa... fa quasi impressione vederla vera, mi. Se pensi che un attrezzino ce ne sono ben più piccole, come abbiamo detto un amico, che la sorella faceva guardia giurata, aveva la beretta 84, calibro 9 corto, sembrava un giocattolino. Abbiamo detto, si pensa che questo strumento può dare la morte a un uomo con una facilità estrema, basta premere il grilletto e tu ammazzi una persona. Infatti fanno un po' di paura quelle cose, se ci pensi, no? Perciò io non ne ho voluto armi a casa, no? Non mi interessano. Bambini certo non abbiamo, ma non mi interessa, non siamo ricchi, quindi non vengono a rubare qua, se vengono ci commuovono e ci lasciano 100 euro. No, ma ti dico cosa mi è successo stavolta. Cosa ti è successo? Hai sognato? Oppure un'aggressione? No, no, mi sono alzato stamattina e cioè andavo a vedere la porta, cazzo, guarda, c'è la porta aperta. Ho lasciato tutta la notte la porta aperta. Oh, per distrazione? Aspetta, vabbè, ma sarebbe il colmo che coincide con la venuta di un ladro. Poi ricordati, vedi, i ladri non portano armi, i ladri proprio... E poi se c'è gente in casa non entrano, quelli che entrano in casa, nonostante c'è gente, ci sia gente pure armata, sono quelli rom ciocci, luridi, capito? Quelli dell'est, quei rom, come li vuoi chiamare, slavi, quelli entrano anche in casa, poi è bello che hanno la violenza, massacrano di botte i vecchi, le donne, pur di farsi dare i soldi, è gentaccia quella andrebbe sparata veramente. Ma i ladri proprio così, manco armi si porre, il ladro ruba solo, se entra già con le armi, allora non è solo ladro, è qualcosa di più. Boh. Hai visto quell'avvocato che ha trovato in casa del padre, ha trovato l'allarme, e lui quando c'era l'allarme lo avvisava, no? È andato a controllare per vedere se c'era qualcuno e ha trovato i ladri dentro casa. Stava mettendo le mani in tasca, lui ha preso, perché se si è preso la pistola, allora ha preso la sparata e l'ha mandata. Adesso è indagato. Pare che abbia sparato 8 colpi, perché c'è gente, no? Che nel momento, non so, si caga, come dico io, si caga, piglia la pistola, manco guarda, spara la cieca, boom, boom, boom, boom, boom, come ha fatto un certo barista. Che conoscevo, che adesso non c'è più, era stato aggredito, non so se colui, sai, nella foga, nella cosa, piglia la pistola, proprio alla cieca ha sparato, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, così, e poteva ammazzare anche qualcuno in strada, perché è successo sulla soglia del bar, non si fa così, devi mirare freddamente, se ci riesci a sparare a uno, ma se vedi che mettere le mani in tasca, meglio sparare. Però certi perdono il bene nell'intelletto e sparano i colpi del caricatore, non va bene, perché ti danno in effetti eccesso di difesa, così li hanno dato a quello, poi magari lo assolvono, però al momento è indagato per eccesso di difesa. Cioè già, chi porta armi, chi ha armi in casa, deve essere anche un po' freddo, non deve essere di quelli che si caga come vede un'ombra, perché magari è un parente che torna tardi, io già ne sai. Aspetta un attimo, sto scrivendo un messaggio, ma... E io... Ma Marco. Eia. Adesso ho avuto una praticamente da poco fa mi ha contattato questa molto carina figura in cosa, mi ha detto che mi ha scritto che praticamente se volevo saltare con lì che ero un po' più e ho detto vabbè non c'è problema, non capisco perché si dice se così carina eccetera eccetera, e lei mi ha scritto che praticamente non andava d'accordo con il marito, è una tipa bionda, lo dice lui, poi carina, sembra una cosa, si chiama Irina, però me l'ho piagata subito io, e ho detto questa cosa vuole mi pare strana. Beh, fatto sta che questa qui mi ha scritto ciao Gianni, che cosa mangi a cena stasera? E io ho detto ma ti farò una pizza e se me tasco non posso stare qua perché mi ho mai detto per le cose, non è che puoi venire in questo sito, non mi ha detto così per la musica e quello è un po' pronto. Ehi guarda, quelle dell'est sono, le vedo molto male quelle dell'est, sono delle zoccole. Ma è bellissima, è una bellissima roba, ma lo fanno apposta da mettere questo più per attirare la gente, capito? Io oramai li agevo là, non capisco, ma no, come ha fatto entrare sul mio messenger che non gli ho dato nessuna amicizia, niente, è entrata così di brutto. E poi mi ha mandato il link per entrare in questo sito per adesso. E io sono tranquillo, non gli rispondo nemmeno, non è possibile. Perché so che cosa fanno, sai cosa fanno? Ti attirano, si sfogliano, fanno, no? E tu magari ti fanno il filmato senza che tu te ne accorgi, no? Dici, ci vediamo in campo. Prendono loro, si sfogliano, fanno e ti prendi, magari fai una faccia strana, e mettono a dire di ricatto, dice se non mi mandi i soldi dico che io sono pedofilo, che lo mandi tutto il mondo, questo e quell'altro, capito? Eia. Sì, infatti quelle dell'est fanno queste cose. Bisogna starci lontano, certo, poi ci sono le. Non sono te così, ci sono anche ragazze serie, ma non mi fido. Poi già il fatto che sia penetrata sul tuo conto a contattarti senza dare amicizia è tipo roba invasiva, dai. Invece a quello pizzaiolo una tipa gli si è attaccata, buonissima, qua, là, là. Lo contattava sempre, poi dice non ho soldi per il cellulare, mi puoi mandare una ricarica? Capito? Per parlare con lui. Sono tutte estorsioni di soldi, oppure vai sul sito e ti spenna tutti i soldi del credito del cellulare, sono tutti trucchi. La società sta diventando uno schifo. Internet, ricordati che è lo specchio della società. Sì, sì. Poi dal nome Irina già avevo capito che era russa, roba di russa, dovrebbe essere russa. Irina, io avevo un'amica che si chiamava Irina, però una persona seria, non era, era una russa, e stava, era sposata con quest'altro e adesso vabbè si sono separati, però era una donna seria, ed era russa, la si chiamava Irina. Eia, eia. C'è chi se le sposa anche, questa è l'est, no? Qualcuno le conosci, ma che va in quei locali, ma che le porta anche qui da là, Ah, io guarda, ho sentito molte di queste storie, oh, da non credo che si prende, che mangia tutti i soldi del conto. Allora, praticamente non me ne sono già capitato, un attimo mi ha contattato una volta e mi ha scritto ciao, vorresti fare amicizia con me, non conosco nessuno qua, ci abito da poco eccetera eccetera, tra l'altro che proprio abitava a Montefiore vicino a casa, cioè fare amicizia non mi costa nulla, se una persona sì, non ha più. Beh, non sai che è la prima domanda che mi ha fatto, quando mi ha dato il suo numero di telefono. sono calcolatrici, si studiano tutto. Per carità, per carità. Guarda, c'era un ex compagno di scuola, no? Che, vabbè, fotografo, c'aveva il negozio di ottica, c'era tuttora, insomma, ex compagno di scuola di tanti anni fa. Questo è sempre, è su Facebook, mette sempre foto di queste dell'est che va al ristorante con loro, cioè questo c'è un modesto negozio di ottica, no? È sempre in locali in Costa Smeralda, in ristorante, sempre si fa le foto con questa dell'est. Io ti dico già che questo secondo me è coinvolto in qualche traffico. Secondo me queste dell'est sono tutte quelle zone dei locali. Come fa questo a stare sempre in Costa Smeralda in coso? O c'ha traffico di, cioè convince queste dell'est, le porta in Italia e poi le manda a battere qui nei locali. Uno che ha un modesto negozietto non può fare quello sì, quel tenore di vita, capito? O c'è quel giro di ragazze dall'est, ci siamo capiti. Vabbè, ognuno sceglie la sua strada. Capito? Sai quante ne illudono di queste dell'est, no? Le portano qua in Italia e poi le obbligano a prostituirsi, soprattutto nei locali, per ripagare il debito, no? Che l'hanno pagata in Italia a spese loro. E purtroppo ce n'è un bel di questi giri, no? Ci siamo stupiti, io col pizzaio ho detto, ma questo come fa a fare quello stile di vita? C'è qualcosa dietro, o giro di cocaina, o giro di sfruttamento di queste povere disgraziate dell'est, perché non tutte lo fanno di proprio pugno e certe rimangono incastrate da sfruttatori, capito? Ma a loro le piace perché guadagnano, si comprano un appartamento con i soldi che si fanno in un mese, capito? Là si fai un appartamento, lavorano per un po', là non sanno nulla, dove abitano, poi se tornano là tranquille con i soldi, in caso si dicono che non lavorano qua in Italia e basta tutto lì. E non nessuno sa niente che se lo possono. E poi spesso qualcuno le vede nei locali, no? Nei locali dove lavorano, si innamorano e gli italiani se le sposano, come certi si sposano quelle negre che magari facevano quel lavoro nei locali. Va bene, magari poi si redimono, non lo so, non posso metterci bocca io, però vabbè, io già non ci vado in quei locali. Anzi, ti dico di più Gianni, adesso te ne dico una. Quando mamma insegnava a Olbia, no? Quel amico di famiglia di mia madre, no? Quel Giuda. Una volta ha detto, io ci facciamo un giro, andiamo in qualche locale. Beh, mi porta in questo locale, no? Che fuori aveva queste lanternine rosse. Io già come l'ho visto l'ingresso ho detto papà, ed è quei locali lì dove ci sono ragazze dell'est bellissime, mai visto ragazze così belle, belle gambotte, due occhi bellissimi, insomma belle, le ragazze più belle del mondo, però purtroppo era di quei locali lì che ti spennano nel bere tipo due birre 8.000 lire mi pare all'epoca. E lì purtroppo se ti metti d'accordo con quelle, certo non fanno niente dentro il locale, cioè loro si mettono d'accordo lì di solito e poi si va fuori a trombare, magari in albergo. Però è sempre il solito squallido ambiente, capito? Prima di tutto non spenderei mai soldi per andare con quelle, per quanto belle siano. È prostituzione, cioè tu andando con, tu in generale, uno andando con loro fomenta, favorisce questo traffico di prostituzione, perciò è sbagliato andarci, capito? Sì, ma non si è informato bene, io so che ci sono i locali che hanno il piano di sopra, si chiama Privé, e tu con loro puoi fare quello di più. Se loro ci stanno, puoi farci tutto, capito? Si chiamano Privé, paga tanto allora, quanto ci sì, qualche locale ce l'ha. Per esempio a Provatore c'era un locale che aveva un'area, sì, tipo pub, poi c'erano dei corridoi dove non potevi accedere, però sicuramente c'erano delle stanze e si costruivano là anche. È uno schifo, dai, quelli che ci stanno dietro sono tutti magnacci, è la stessa cosa di uno che manda la ragazza a battere in strada, capito? È un brutto ambiente, frequentato lo stesso la brutta gente, non lo so, non mi piacciono quei posti, non mi sono mai piaciuti. Ma che lo dici, io non sono mai andato in strada, non ci andrò mai perché non mi attirano, mi fanno pena queste persone. Preferisco le persone normali, dai, preferisco avere un contatto, diciamo, prima fare i preliminari, eccetera, eccetera, conoscere bene la persona, tutto quanto, no? Così facilmente non mi piace. Infatti io non... Poi gli ho detto quando siamo usciti, no, a parte che questo Giuda di cui ti sto parlando era mezzo ubriaco già, no, che mi ha accompagnato lì, e gli ho detto ma in carattere di posto mi hai portato, e lui ridendo istericamente, no, io ti porto a vivere e tu, come dire, che menisci con queste frasi, ah, quella sarebbe la vita per te, no? Poi se ti avevo raccontato, non so se te l'avevo raccontato a te, stavo scamando tramite cellulare che parlavo di un altro, non so se ti avevo accennato. Già lo so, già me lo ricordo quello che è vero, non lo so. Sì, non c'è problema, insomma già te l'avevo raccontato a te, sì, capito. Capito, gli ho detto roba, che razza imposto mi hai portato, vuol dire in un postribolo, e lui, io ti porto a vivere e tu, no, si è messo a ridere. Ah, quella sarebbe vita per te, stavo per dire. Bravo, bravo. E vabbè. Sembro tanto depravato io, ma sono un po' bacchettone per certe cose, hai notato? Non mi piacciono quei posti, non mi piacciono queste prostitute. Poi ricordati, perché c'è traffico di prostitute? Perché ci sono i clienti che ci vanno, se non ci fu, come la droga, se non ci fosse chi la droga la vuole, non esisterebbero i traffici di droga, se capì? Quindi io non so più chi punire, se chi vende o chi compra. Lo stesso nella prostituzione. Marco, poi c'è questo, che questa gente così come quel Giuda lì, prima va con loro e poi va con la moglie, va con... magari mi contagia pure il malato. Ehi, aspetta che mi è caduto il mic. Poi dovevi vedere le facce di chi c'era lì, in quel locale a Olbia. Era stato chiuso poi pochi mesi dopo, lo sai. Hanno fatto una retata, l'hanno chiuso per sfruttamento della prostituzione. Devi vedere le facce che c'erano, facce da magnaccioni, oppure pastori, proprio facce da pastori che venivano dai paesi a sbavare guardando quelle ragazze. Ma Olbia è rinomato come posto, c'è un giro a Olbia allucinante, quanto mi hanno detto. C'è un giro allucinante, Marco. C'è un brutto ambientino a Olbia, perché ogni tanto sul giornale, anche nei mesi anni passati, leggevo il racket, negozi bruciati del racket, o macchine bruciate per racket. C'è un brutto giro a Olbia, c'è un brutto ambientino, vabbè, per chi va in quegli ambienti. Comunque, aspetta, quando era? Mi pare non da molto, avevano chiuso vari locali, tipo quelli, tipo uno a Porto Torres, che senz'altro è quello che penso io, uno, vabbè, non c'ho più l'articolo della nuova, comunque ho visto che c'è stata una retata, anche a Sassari, a Porto Torres, o nei dintorni, sai, zona tipo Lantriga o Bancali, quei localini equivoci, diciamo. Era l'ambito, ho capito. Io ho detto Lantriga, come potevo dire dei punti, ma so che ci sono ambientucci così, capito? E quindi ripeto che anche nelle discoteche, perché c'è un bel traffico di droga? Perché c'è gente che la vuole, vogliono pasticche, vogliono metanfetamine, vogliono... non non so, poi questa MDMA non so esattamente cosa sia. MDMA, devo cercare su internet. Capito, c'è chi la vuole, e quindi c'è chi la vende. È difficile da discutere già, non so appunto chi abbia più colpe, se chi vende o, se, o chi acquista. Boh. Entrambi, perché chi vende ha la colpa di venderla, se non l'avesse venduta non sarebbero stati drogati. E chi se la compra favorisce chi la vende. Naturalmente è già malato, quello che la compra è già malato. Ah, MDMA mi pare che sia un acido, un nuovo acido che stanno utilizzando in discoteca, che tra l'altro cancella le cellule cerebrali, mi fate grippare, lui è forte, è un bel po', a quanto si dice. Guarda, è uno schifo. Ma c'è perché è uno schifo? A parte la droga, le tagliano, queste cose con cose assurde, con cose anche velenose, che ne so, lo graffiano, lo tagliano col bianco del muro, col tuffo, col coso, con... È gente che non ha scrupoli, quelli che prendono, è gente senza scrupoli. Io per me li avrei messi al muro e fucilati gli spacciatori, ma non si può fare, perché siamo in un paese democratico, vabbè, lasciamo stare, un paese pseudo-democratico. Lo so. La gente qua ha il guadagno facile e preferisce fare corruzione perché fare un lavoro utile, per fascia del matto, capito? È facile vendere droga, vedi la cosa, quindi ti devi dire di tanto. Se non ti beccano fai una vita da fasciare, finché ti beccano, naturalmente non ce la fai più perché cominci a comprare macchine grosse, a comprare guide, a comprare rapide e poi dico, non capisco se ti trovo io prima andavo molto in pulcissimo. E a questo spacciatore gli avevano detto come mai aveva una BMW, un Kawasaki 750 e una Lamborghini. E lui gli ha detto che praticamente erano soldi che gli aveva dato il padre e che ci aveva comprato questa cosa con i soldi del paese, cioè che l'avevano fatto un padre. Se mio padre mi ha detto, allora non è voi, perché quelli che ci sono qua a fare i biglietti, guardate quanto si guadagna, prendono più. E allora la 3,4 metile, vabbè, sai cos'è l'MDMA? Ecstasy, è uno dei tanti nomi dell'ecstasy, ecco cos'era, io credo si chiama ecstasy, e fanno vedere qua una foto, aspetta, dov'è? Ah, non c'è la no, c'è la formula chimica. Vabbè, ecstasy. Comunque, discoteca, vedi, pasticchette, l'ho visto qua in una foto, di tutti i colori, pasticchette, tipo pastiglia, no, compresse, di tutti i colori, con o senza disegno, con disegnini, con lettere. Sono cose autoprodotte, capito? Spesso sporche. Tu l'avevi vista Natalia? Basta, Natalia. Ci sto chiamando Natalia. L'avevi vista la serie televisiva Breaking Bad? No. Allora, praticamente parlava della metanfetamina. Met, la chiamano crystal meth, met. Sono dei cristalli trasparenti, sembra vetro spaccato, oppure azzurrini, di metanfetamina, che si fuma, si sniffa o si inietta. Ed è lo stesso, tossica per il corpo, perché se la fumi ti diventano i denti neri, poi ti calano tutti i denti. È sempre roba tossica, sono sostanze chimiche, alla lunga sono tossiche. Hanno fatto vedere le foto, qua ce n'è in internet, di gente prima di prendere, ci sono le foto, ragazze e ragazzi, prima di prenderla e dopo anni di uso, diventano degli zombie, tutti col volto pieno di chiacce, senza denti, magri, sembrano degli zombie. Capito come ti riduce quella roba? Vabbè, io li ho visti dal vivo, queste qua. Inizia a sentire la servizio ambulanza, io ho questa gente avvicinante. E lo so già, ogni tanto mi viene la voglia di parlare, no? C'è la volta non voglia, ma quando attacco Ci sono droghe anche pericolose, proprio che ti bruciano i neuroni anche dopo pochi utilizzi, almeno così dicono. Adesso ti dico un caso che c'è stato a Sassari, no? Questo ragazzo che era veramente di buona famiglia, di gente seria, buona famiglia, ha preso una di queste droghe, gli ha stravolto la mente e è andato in un vicolo dove c'era un sex shop e aveva tagliato quasi la gola al gestore. Sicuramente l'hai letto sul giornale. Non so, gli ha dato un coltellato, cosa era, gli ha tagliato la gola, per fortuna si è salvato il tipo. E tu dici era un delinquente? No, era un ragazzo tranquillo, di buona famiglia, conosciuto anche da noi, conosciuto da mia zia, i genitori, infatti i genitori ne avevano la faccia in terra, a parte che appunto ha quasi ammazzato un uomo sotto gli effetti delle droghe, ed erano sicuramente quelle droghe, non so, ecstasy o peggio, gli hanno sconvolto la mente a tal punto che non, forse gli è apparso come un mostro e gli ha tagliato la gola quasi. Meno male si è salvato, se no era omicidio. Sono droghe allucinogene che fanno vedere cose di stessi e loro diventano cattivi, fanno fare cose che magari non farebbero male la vita normale, senza prendere droghe. Marco, dai, io ti saluto, che devo andare a portare il testo, se no, questo sta aspettando, il signore che ti guarda, dice bene, mi butti. Dai, poveretto, vedo che sono le 20:36, dai, portalo. E ogni tanto, davvero, mangio puntini nel grammofono e attacco e non la smetto più. Dai, ci sentiamo. Ciao a tutti quelli all'ascolto. Alla prossima puntata. Ciao, già, buonanotte. Ciao, Giannetto. Oggi c'erano argomenti sì. Dai, buona continuazione. Ciao a tutti, anche l'ascolto. Ciao Gianni, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao Ascolita, pronta l'accetta, ci sentiamo domani se tutto va bene, ciao. Ciao a tutti, ciao. こちらは NHK ワールドラジオ日本。